busco una salida y no entiendo lo que pasa. Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz. Non so se quel che provo è già dentro una canzone. Nel mio cuore tutto inizia a confondersi. Busco ese momento donde llenas mi confianza y provocas en mi mente revolución. C'è chi sa spiegarmi questa strana sensazione. Sicurezza e dubbi sembrano fondersi. Solo tu rimani accanto a me. È per questo che canto. Se ci sei, ogni cosa trova senso. E vorrei dirti solo ciò che penso. Guardo te e mi rendo conto che le parole capire cosa sento se mi parli e che cosa leggo in fondo agli occhi tuoi.